si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua ben ritrovati dalle 8.30 sino alle 11, un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi i nostri approfondimenti, le buone notizie, il numero verde per intervenire in diretta però dopo il giornale radio delle 9 e per iniziare una buona notizia. And now the good news! Questa volta siamo a Ravenna, dove dopo un anno di sperimentazione è stato riconfermato il progetto dell'autobus alimentato a idrometano. Si chiama MyBus, sperimentato con un anno per un anno con successo a Ravenna. L'autobus alimentato a idrometano, una tecnologia tutta italiana, consuma il 13% in meno, riduce del 15% le emissioni di anidride carbonica. Il progetto renderà più ecosostenibile la mobilità dei mezzi pubblici urbani. La conferma è arrivata poco tempo fa da parte dell'assessore competente. Insomma, una tecnologia italiana, idrogeno e metano insieme per far funzionare i mezzi pubblici con risparmio per le casse del comune e anche per quanto riguarda l'inquinamento dell'ambiente. Questa sì che è una buona notizia. Oh, ma la notizia più bella naturalmente la troviamo in prima pagina su tutti i giornali ed è quella delle dimissioni del presidente dell'INPS Mastrapasqua, perché non se ne poteva più di questa storia. Uno con 25 secondo alcuni, 10 secondo altri incarichi, che aveva un conflitto di interessi tra l'INPS e l'ospedale romano di cui era direttore e non pagava i contributi all'INPS di cui lui era presidente, la Equitalia che non faceva i controlli di cui lui era vicepresidente, insomma una cosa pazzesca. Poi ci si è messo anche Libero, che ha scoperto la storia della laurea falsa, poi rimediata, insomma era stato condannato per due esami verbalizzati ma non regolari, non fatti sostanzialmente. Insomma, uno così, come ha fatto a diventare presidente dell'INPS e presidente di altre società pubbliche? Insomma, ci è voluto il DDL Letta contro le incompatibilità e sul conflitto di interessi per i presidenti degli enti pubblici nazionali. Ci è voluto la dignità alla fine di Mastrapasqua, evidentemente sotto qualche pressione, di dimettersi. Oh, INPS Mastrapasqua si arrende, così titolo al Corriere della Sera. Le indagini e la laurea falsa hanno spinto a lasciare il presidente. Letta parla di una scelta saggia verso il commissariamento dopo la svolta del governo sul conflitto di interessi. Spunta l'ipotesi di Tiziano Treu. Il Corriere si occupa anche con una fotonotizia: borra tra Ponzacco e Pontedera, dove il fiume era estraripato. La foto ritrae i vigili del fuoco in piedi sulla loro camionetta per evitare l'assalto dell'acqua. Neve e nubifragi, mobilitato l'esercito. Soldati per liberare le strade al nord, bloccati i treni verso l'Austria, esonda il Tevere, allerta che durerà fino a martedì. In tutto questo c'è un'intervista a Romano Prodi da parte del Corriere della Sera. Andiamo a leggere qualche passaggio. Prodi che vuol dare la scossa all'attuale presidente del Consiglio Enrico Letta, che viene considerato anche un suo allievo. La scossa di Prodi al Premier: non abbia paura, ora tenti una sortita. Non voglio andare al Quirinale, il paese è cambiato, non sono un uomo 2.0. Leggiamo: alle elezioni del 25 maggio, europee, si profila un successo delle forze anti-europee. Può essere una scossa? È la domanda di Aldo Cazzullo. Risponde Prodi: lo sarà senz'altro. Questa del resto della storia dell'Europa, l'Unione ha sempre avuto uno scatto dopo le crisi. Poi veniamo a Renzi: che valutazione dà del Job Act di Renzi? La direzione è quella buona, bisogna tradurla in decisioni concrete, devono capirlo tutti, il potere politico, i sindacati, le imprese. In questi anni si sono aperti molti tavoli di concertazione, la frammentazione li ha uccisi tutti. Oggi a Palazzo Chigi c'è Enrico Letta, che viene considerato un suo allievo. Che consiglio gli darebbe? Di tentare una sortita, di prendere iniziative anche contestate, di non avere paura di mettersi in una controversia. In un articolo sul Messaggero, chiede Cazzullo, lei ha ricordato che il potere pubblico è intervenuto ovunque in difesa dell'industria dell'automobile, dalla Spagna agli Stati Uniti, passando per la Francia, tranne che in Italia. Risponde Prodi: è oggettivo che l'affare Fiat si sia concluso senza la voce del governo, e sulla Electrolux c'è stata solo una mediazione a posteriori. Poi domanda delle mille pistole: vuole fare il Presidente della Repubblica? No. Mi pare di averlo già chiarito in più di un'occasione. Il paese è cambiato, c'è un mondo nuovo, occorrono persone nuove, non sono un uomo 2.0. E così, insomma, Prodi in questa intervista oggi sul Corriere della Sera. Repubblica si dedica invece col titolo principale all'altra vicenda, diciamo così, di ieri. Grillo, assalto web alla Boldrini. Un video scatena un'ondata di insulti sessisti, la presidente commenta, è terrificante, eversione. Che è successo? Che ieri è circolato in rete un video postato da un elettore del Movimento 5 Stelle e ritwittato o ripostato da Grillo. Cosa fareste se fosse in macchina con la Boldrini? E giù una serie di commenti agghiaccianti, terrificanti, battute sessiste, a sfondo sessuale contro la Boldrini. Molte, alcune di queste però erano anche dei fake, cioè dei falsi. Io ho controllato personalmente, giravano anche delle cose false, bisogna dirlo. Comunque all'interno del Movimento 5 Stelle c'è qualcuno che vuole mettere una toppa. Sbagliato insultarla, dice, per fortuna la 5 Stelle Loredana Lupo su Repubblica. Io sto ancora aspettando che lo faccia D'Ambruoso per la sua aggressione, e torniamo ancora indietro nel tempo, però insomma dice sbagliato insultarla. Bisogna chiedere scusa, però deve dimettersi. Leggiamo: onorevole, alla domanda di Grillo cosa succederebbe se ti trovassi la Boldrini in macchina, è piovuto di tutto e di più, cosa ne pensa? Risponde l'onorevole Lupo del 5 Stelle che gli attacchi personali sono sempre da evitare, non servono a niente, però non si può distogliere l'attenzione sulla questione politica. La richiesta di dimissioni della Boldrini è sacrosanta, dovrebbe essere imparziale e non lo è, non rispetta le regole e sta lì per difendere l'esecutivo. Insomma, il Movimento 5 Stelle dice che la Boldrini come Presidente della Camera fa un po' da passacarte del governo, smista il traffico per i decreti del governo. È vero, sostanzialmente è sempre successo, forse non dovrebbe essere così, però è abbastanza la verità. Di lì a arrivare a aggressioni come quella di ieri, ovviamente il passo non è lungo, è lunghissimo, è una cosa che non si dovrebbe proprio vedere. Però è successo, insomma, anche se, ripeto, forse c'è stata anche un po' di montatura da parte del web che si infiamma per queste polemiche. Un altro mea culpa di un altro onorevole del 5 Stelle è Di Battista, che dice: ho usato parole sbagliate, si riferisce alla vicenda IMU Banca Italia. Leggiamo anche qua brevemente cosa ha scritto ieri su Facebook Di Battista: ho chiesto scusa per le nostre parole sbagliate, da noi si sbaglia e si fanno cose buone tutti assieme, scusarsi e ammettere gli errori è il primo segnale di forza. Così su Facebook il deputato Alessandro Di Battista è tornato sulle difficili giornate del decreto IMU Banca Italia. Per Di Battista anche qui il punto è questo: la Boldrini comunque è una bugiarda professionista. E questo, insomma, la vicenda tra la Boldrini e il Movimento 5 Stelle. Oh, c'è su Repubblica anche un'altra bella notizia, speriamo. Mai più abbandonati al pronto soccorso, arriva l'hostess per malati e familiari. Succede questo, che in alcune regioni italiane, adesso parte anche il Veneto, si sta sperimentando hostess e steward nelle sale d'attesa dei pronto soccorsi a rincuorarti. Sembra una sciocchezza, ma forse non lo è del tutto. Staranno accanto ai familiari dei malati, faranno da tramite tra chi cerca informazioni e i medici, potranno offrire un bicchiere d'acqua, dare un po' di conforto, spiegare perché la visita tarda o perché ci vuole tanto tempo per sapere qualcosa del proprio caro. Regioni come Toscana, Emilia-Romagna e Lombardia sono già partite con personale stipendiato oppure con volontari. Adesso è la volta del Veneto, che addirittura propone di coinvolgere anche gli studenti di medicina o di infermieristica, e mi sembra un'ottima idea. Anziché fare dei tirocini lunghissimi nelle scuole di specializzazione dove si impara dell'altra teoria, spesso fare un po' di pratica al pronto soccorso e dare una mano sicuramente è una cosa forte e importante, sarebbe per i medici. Chissà perché non ci ha pensato nessuno prima. Dice Zaia: l'ospedale deve andare verso la persona e non viceversa. Il presidente della regione Zaia del Veneto, l'ultimo che annuncia questa rivoluzione hostess e steward nelle sale d'attesa dei pronto soccorso per migliorare un po' la vita dei pazienti. Abbiamo ancora un po' di tempo, sì, per, prima di dare la linea al traffico. Allora, vediamo per esempio Libero, che sulla vicenda Mastrapasqua ha dato del suo, perché dopo lo scoop di Libero, scrive oggi il quotidiano di Belpietro, Mastrapasqua pensionato, questa volta lui. La laurea falsa costringe Mister Mille Poltrone a mollare quella dell'Inps, ma ora occhio al successore, non possono essere Treu, che non vigilò su Affittopoli, e Bonanni a gestire le nostre pensioni. Leggiamo al volo, a convincere Mastrapasqua ha contribuito la prima pagina di Libero ieri, quella in cui si raccontava la storia della laurea falsa, una vicenda di 30 anni fa, esami non sostenuti ma riportati sul libretto universitario. Per questo l'ex presidente dell'Inps era stato condannato a 10 mesi di carcere e costretto a rifare gli esami e ridiscutere la tesi, fatti per cui in seguito Mastrapasqua aveva ottenuto la riabilitazione, ma comunque fatti che non si addicono a chi ricopre un incarico così delicato come quello di massimo gestore delle pensioni degli italiani. Tra i candidati a sostituire Mastrapasqua si fanno i nomi di Tiziano Treu, Raffaele Bonanni. Il primo era il ministro del lavoro ai tempi di Affittopoli, non vigilò allora, non è il caso che vigili adesso, scrive Belpietro. Il secondo, Bonanni, è un sindacalista, insomma, sia con l'uno che con l'altro saremmo alle solite, politici e segretari confederali a gestire le pensioni. Beh, adesso, fino adesso non è stata proprio così, perché Mastrapasqua non era né un politico né un sindacalista, era un boiardo di stato, teoricamente un tecnico, se non fosse che non aveva nemmeno la laurea corretta. È una vicenda pazzesca questa qua, pazzesca. Scrive bene Rizzo sul Corriere della Sera, ci vorrebbero le autocritiche di quelli che in questi anni lo hanno nominato, lo hanno spinto, lo hanno portato avanti. Chi lo ha nominato Mastrapasqua? Chi lo ha nominato Mastrapasqua? Tremonti e Sacconi. Signori, Tremonti e Sacconi nel luglio del 2008, lo ricorda oggi La Stampa, il ministro del lavoro e dell'economia, hanno nominato il signor Mastrapasqua, che non aveva neanche la laurea corretta, e poi dopo altri lo hanno fatto lavorare in santa pace. Per esempio, se lo ritrovo, l'intervento di oggi di Elsa Fornero, che su qualche giornale, non lo ritrovo, fa anche lei un piccolo mea culpa, perché lei lo ha riconfermato. Ci fu il dissidio sulla questione degli esodati, lei dice: non me la sono sentita di fare uno scontro con lui, aveva una buona reputazione di manager. Ma io dico, dove l'ha controllata la buona reputazione di manager di Mastrapasqua, che aveva già un sacco di conflitti di interesse, di poltrone, e aveva questa storia della condanna? Insomma, la fedina penale non ci vuole molto per controllarla, dovrebbe essere l'ABC di tutto, ma in Italia non esiste niente da questo punto di vista, evidentemente, per ora. Staremo a vedere. Traffico, torniamo dopo aver parlato del domenicale, l'inserto di cultura del Sole 24 ore, torniamo dopo il giornale radio, anche con il numero verde 800 24 00 24. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori, eccoci qua, restiamo in edicola come ogni domenica a quest'ora e andiamo a curiosare tra le pagine del Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore, curato come ogni domenica dalle mani sapienti del direttore Armando Massarenti. Buongiorno Armando, ben ritrovato. Buongiorno, buona domenica a tutti. Oggi di nuovo insieme a noi in studio, siamo stati in collegamento telefonico per qualche puntata nelle scorse edizioni a guidarci nel mondo della cultura, fra appuntamenti, festival, rassegne, ma anche i dibattiti che contano. Insomma, la cultura, quella che io dico sempre, ci aiuta a rispondere alle domande: chi siamo, dove stiamo andando. Armando, oggi da dove vogliamo partire per questo viaggio nel domenicale? Ma forse da chi eravamo, forse che siamo ancora, ma che possiamo raccontarci in chiave storica, ed è quello che fa Gabriele Pedulà nella copertina, raccontandoci di un romanzo che lui ritiene uno dei più belli che siano usciti ultimamente. L'autore è Francesco Pecoraro e il titolo è La vita in tempo di pace, ma di questo parleremo poi con lo stesso Pedulà, perché ci spiegherà appunto in che senso è una delle migliori cose uscite in questi anni, in cui non è che ci siano stati grandi capolavori, ecco, dal punto di vista della narrativa italiana. ci sono tante altre cose di narrativa in questo numero, però vorrei soffermarmi anche su alcuni elementi che riguardano sempre la letteratura, ma che riguardano dei modi diversi di raccontare storie notissime. Per esempio, Alessandro Schiesaro, questo nostro grande antichista, ci racconta di errori e bugie omeriche, andando a prendere delle fonti che raccontano la storia di Troia in modo completamente diverso, o comunque dalla parte appunto dei troiani. E quindi va a vedere nelle fonti antiche e medievali, fonti anche antiche e coeve alla stesse vicende, dicendo che appunto Omero non poteva sapere quelle cose lì perché appunto è arrivato dopo e ce le ha raccontate in maniera un po' diversa. E tutto ciò a partire da un libro di Valentina Prosperi, Omero sconfitto, ricerche sul mito di Troia dall'antichità al Rinascimento. E poi ancora abbiamo un romanzo che viene riedito, un romanzo di 25 anni fa che parla di una storia gay. Edmund White è l'autore, La bella stanza è vuota, e ci racconta una storia degli anni 60, delle difficoltà di scoprire di essere omosessuale negli anni 60, in un'epoca in cui però ci è anche questa grande riscossa, manifestazioni per i diritti civili, che però non consolano particolarmente il protagonista di questo romanzo. Quindi insomma interessante rileggerlo oggi dopo tanto tempo. E poi ancora, se vogliamo, un'altra delle caratteristiche del nostro domenicale è quella di andare a cercare dei temi di grande attualità e trattarli in una maniera abbastanza inusuale e magari con degli affondi di tipo anche scientifico. Quello che fa per esempio Luca Pani, ormai ci ha abituato con questi suoi articoli su chi siamo, ecco, qui siamo davvero sul chi siamo, e chi siamo lo possiamo scoprire attraverso un anniversario importante che è quello di Facebook. Oggi proprio sono i 10 anni esatti dalla nascita di Facebook. Facebook ci ha cambiati come esseri umani? Ecco, non tanto, perché provate a leggere questo articolo. Intanto troppo facile diventa dire amici attraverso Facebook, dare l'amicizia, ma in fondo l'amicizia, quella vera, è qualcosa di molto certo più complicato. Anche questa parola amici, da quando c'è Facebook, ha subito un po' inflazionata, sta cambiando, però poi questo articolo ci invita anche a ritrovare la radice forse anche di questa parola. Soprattutto il significato. Non solo la parola, ma anche che cosa significa essere amici di qualcuno e quanti possibili amici noi possiamo avere. Ecco, cioè, quindi quelle cifre che noi vediamo su Facebook, migliaia di amici. È interessante, in fondo, perché ho la passione per i numeri, che c'è anche tutto un algoritmo di numeri che quindi certo. Potete trovare di Luca Pani all'interno per così capire un po' anche l'algebra di Facebook. L'algebra di Facebook è anche soprattutto la base da cui partiamo, cioè degli esseri viventi che in genere non possono avere più di un 150 amici, diciamo, con cui intrattenere delle vere relazioni. Questo era vero prima di Facebook e dopo Facebook, diciamo. Questa è la cosa divertente. Quindi il resto che ci sono, dice, amici di Facebook, ma è una cosa diversa. È una cosa diversa. Poi abbiamo le pagine di scienza e filosofia. Mi soffermo solo un attimo su una di queste perché annuncia un libro molto importante di James Flynn. Noi lo avevamo già recensito quando era uscito in inglese, adesso esce in italiano ed è un libro che si intitola Osa Pensare, edito da Mondadori Università, ed è, ci racconta di 20 concetti che sono fondamentali oggi per essere, diciamo, intelligenti, diciamo, per poterci orientare magari nel mare magnum delle notizie, nel mare magnum di internet, che spesso un po' ci confonde proprio per l'eccesso e per la quantità di informazioni che noi ritroviamo. E lasciatemi fare un'altra volta, scusate se mi ripeto, ma purtroppo è una storia infinita, un affondo proprio a proposito di informazione, di necessità di orientarci, sulla questione stamina. E qui abbiamo di nuovo il nostro Michele De Luca, che è uno dei grandi esperti veri di mesenchimali, sì, quindi di cellule staminali, che puntualizza ancora una volta perché non bisogna fare confusione a livello informativo su questa, che non è una cura, non è un trattamento, è qualcosa che invece inganna pesantemente le persone. Insomma, un modo di orientarci nella lingua. Cito un altro argomento, Giuseppe Antonelli, linguista, che ci racconta e ci recensisce un libro molto bello che si intitola L'italiano nascosto, una storia linguistica e culturale. della nostra lingua, appunto, ed è Enrico Testa, l'autore di questo libro, edito da Einaudi. Al Paolo Albani invece ci parla di un italiano inventato, insomma, la supercazzola famosa di Amici miei e tutte le altre lingue possibili costruite su un italiano fantastico. Adesso però, Armando, se vogliamo, salutiamo Gabriele Pedullà, buongiorno, scrittore e docente. Eccoci qua, che come dicevi tu, Armando, ciao, è la vostra copertina di oggi per parlare di una nuova uscita, di un romanzo a cui si vuole dare importanza perché, insomma, promette bene. Si usano raramente con tanto piacere dei superlativi per un romanzo contemporaneo come per La vita in tempo di pace di Francesco Pecoraro, che è uscito da Ponte alle Grazie un paio di mesi fa e che comincia a trovare i suoi lettori. Un libro molto lungo, molto bello, molto ambizioso, 500 pagine, una sorta di grande storia d'Italia al ritroso. E quello che noi facciamo, fidandoci ciecamente, perché nessuno di noi l'ha ancora letto ovviamente, ma invece Gabriele Pedullà lo ha letto e lo ha analizzato molto bene, e noi azzardiamo che questo sarà uno dei romanzi che quest'anno farà più parlare di sé, perlomeno noi lo proponiamo come tale. E anche perché è un romanzo che tra l'altro fa un azzardo anche dal punto di vista del modo in cui usa la biologia, no? Cioè ci parla di storia ma allo stesso tempo della nostra essenza biologica, ed è un romanzo che potremmo dire neodarwiniano, così lo abbiamo intitolato, no? Il grande romanzo neodarwiniano. Sì, devo dire questo forse dipenderà dalla formazione di Pecoraro, che non è un umanista di formazione, è un architetto. Lui è un autore ormai di 70 anni, un esordiente tardivo in qualche modo, questo è il suo secondo libro dopo una raccolta di racconti, e probabilmente da questo gli arriva una grandissima curiosità per tutto quello che non è propriamente una cultura umanistica, ma neodarwinismo, antropologia, ovviamente architettura, ingegneria, il personaggio è un ingegnere, e a livello metaforico tutti questi livelli finiscono in qualche modo per comporsi in un grande affresco, in quello che veramente, utilizzando, richiamandoci a un grande ingegnere romanziere del XX secolo come Musil, potremmo definire un romanzo sacro, proprio per il gusto di intrecciare le storie. Questo è un romanzo che si legge anche molto volentieri, con una riflessione di natura parasaggistica. E allora appuntamento in edicola oggi sul Domenicale, se volete leggere la recensione di Gabriele Pedullà del romanzo di Pecoraro, La vita in tempo di pace, queste ed altre notizie di cui abbiamo parlato oggi. Grazie Pedullà, grazie per essere stato con noi. Armando, anche noi ci sentiamo domenica prossima, grazie. Buona domenica a tutti, a domenica prossima. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati cari ascoltatori, eccoci qua, 800 24 00 24, cominciate a comporre il numero verde per intervenire in diretta come ogni sabato e domenica mattina, potete commentare quello che sentite in onda, potete raccontarci che cosa ha reso bella per esempio la vostra settimana, come facciamo ogni weekend. Oggi però il nostro contest, per cui c'è un succulento premio, che oggi non sono i biglietti per una mostra ma è il corso allegato al Sole 24 Ore BBC English, un corso di inglese della BBC allegato al Sole 24 Ore a puntate, ma che noi vi regaliamo tutto integrale oggi, a chi per primo risponderà alla domanda sul personaggio della settimana. Vi daremo una serie di indizi, il primo subito dopo la pubblicità, tra pochi minuti, e appunto il primo che vince si porta a casa il corso BBC English, il personaggio della settimana. Il primo indizio ve lo diamo tra poco, 800 24 00 24 con gli ascoltatori. Ci sentiamo dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Giunga, giunga. Andava a città allora per cantare la serenata, brem, brem, brem, brem, brem, brem, brem. E non 100 all'ora, titolano i giornali locali, in arrivo una pioggia di autovelox nel Bellunese e apriti cielo naturalmente. Ma la notizia, andando a leggere, è un pochino più articolata. Il comune ha deciso di mettere sì degli autovelox, ma per incassare qualcosa da mettere a budget per abbattere per esempio le barriere architettoniche, come del resto prevede anche la legge. Noi abbiamo convocato il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Perché vogliamo capire un pochino di più questa notizia. È vero, in Italia bisogna far rispettare le regole, sicuramente, e una delle regole del codice della strada è quella del limite di velocità, per esempio. Però sappiamo come reagiscono gli automobilisti, a volte giustamente, quando si sente parlare di autovelox nascosti dietro le curve per fare cassa, poi si spostano ogni volta da un punto all'altro e non si sa mai a quello a cui si va incontro. Sindaco, prima di tutto le chiedo se è vero che in arrivo una pioggia di autovelox nella sua zona. Ma allora, non è che arrivi proprio una pioggia di autovelox. Per la verità noi abbiamo fatto un tour, diciamo, nelle varie frazioni della nostra città, nei vari quartieri, e l'esigenza che è sorta, diciamo, che è emersa in modo forte è stata la necessità di ridurre la velocità degli automezzi in prossimità degli abitati. Quindi sono i cittadini che hanno chiesto, trovate il modo di rallentare il traffico perché qui è pericoloso. E in effetti Belluno, tra l'altro, è diciamo ai vertici come qualità della vita in Italia, però paradossalmente ha un numero di incidenti troppo elevato rispetto, diciamo, allo standard. Infatti allora, ci eravamo sentiti proprio per questo, perché eravate stati al vertice come città, credo, tra le città piccole, qualcosa del genere. Sì. Esattamente, sì, sia fra quelle piccole sia sulla classifica assoluta. E quindi abbiamo pensato ovviamente di fare un programma, sì, diciamo, di sistemazione di alcuni attraversamenti pedonali mediante alcune tecnologie, diciamo, più avanzate, insomma, che rendono più visibili e più sicuri gli attraversamenti, e anche l'installazione di alcuni autovelox, che però devo precisare non vengono messi in modo nascosto, vengono anzi resi assolutamente molto visibili con cartelli molto grandi, proprio perché l'intento ovviamente è quello di cercare, diciamo, di rallentare il traffico più che non mettiamola così di fare cassa. Ecco, questo poi è già un punto, mi scusi sindaco, già un punto, sì, importante, perché in effetti tra le varie scuole, quella, diciamo, che appare più onesta dal punto di vista intellettuale, cioè per sgombrare il campo dal fatto che i comuni vogliano far cassa con gli autovelox, è quella che dice che gli autovelox devono essere visibili per avere l'effetto di dissuasione sull'alta velocità e non per semplicemente per far multe. Quindi questo è l'intento. Esatto. Saranno visibili, cosa vuol dire? Vuol dire che vengono posizionati non in posti, diciamo, nascosti, anzi vengono posizionati in posti dove sono visibili, ma io ho chiesto anche alla polizia locale, che si sta attrezzando appunto per questo, di mettere anche dei cartelli proprio con la scritta autovelox o comunque con la indicazione, che siano ben visibili da lontano, che siano preannunciati, ecco, sì, a qualche centinaio di metri di anticipo, in modo tale che ci sia l'assoluta consapevolezza da parte dell'automobilista che fra 200 metri si passerà davanti a un autovelox. Questo ci consente ovviamente di ridurre la velocità sulla strada, cercando di ridurre il numero di incidenti, e poi contestualmente ovviamente di farlo in modo, come si può dire, trasparente, diretto, in modo tale che il cittadino, se vuole passare veloce, vabbè, pagherà la multa, ma se ne è assunto un po' lui, se vogliamo, la responsabilità. Certo, sì, io so, è una decisione consapevole, ecco, non so come dire. Certo, se io so che in quella strada ci sono degli autovelox, è ovvio che se sono soprattutto un abitante della zona, ma se è segnalato, anche se ci passo, insomma, so che a sgarrare rischio di prendere la multa, e quindi, diciamo, me ne assumo anche giustamente, come diceva lei, responsabilità. Il punto però che le volevo chiedere è questo, cioè voi dite siamo partiti dalla necessità di moderare la velocità nella zona, diciamo, immediatamente vicina al centro della città, però quando poi leggiamo che ci sono una serie di lavori, come per esempio l'abbattimento delle barriere architettoniche che si pensa di fare dai soldi incassati dalle multe. Allora la domanda appunto è questa: è possibile mettere a budget dei lavori che vanno fatti con un incasso presunto di multe che, come lei ci sta dicendo, sperate poi di non fare, perché in realtà l'obiettivo, certo, non è far cassa ma è moderare la velocità? Allora, questo è legato un po' al funzionamento anche del sistema. Cioè gli introiti delle multe, che storicamente, statisticamente per Belluno sono intorno ai 400.000 euro circa all'anno, non è una cifra molto elevata rispetto a comuni, diciamo, uguali come dimensione, vengono reimpiegati praticamente proprio su spese che riguardano la viabilità stessa. Mi spiego, quegli interventi che dicevo prima, e cioè l'acquisto degli autovelox e la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali, sì, i lavori che partono adesso con questa primavera, stiamo aspettando il bel tempo per iniziare i lavori, sono stati acquistati e pagati con i soldi delle multe dell'anno scorso. Quest'anno viceversa abbiamo pensato di spostarci di più invece sulla questione delle barriere architettoniche, per cui con gli introiti che quest'anno faremo con le multe reinvestiremo in abbattimento delle barriere architettoniche. Questo che cosa crea? Crea un circolo virtuoso per cui tutti i soldi che vengono presi da chi, diciamo così, non rispetta le regole in tema di sicurezza stradale vengono reinvestiti per la sicurezza stradale, quindi creando, diciamo, un ciclo, insomma, chiuso. Questo ci consente proprio di utilizzare tutte le risorse che noi abbiamo per cercare di migliorare la sicurezza. Le barriere architettoniche non sono strettamente sicurezza stradale, ma sono molto legate, diciamo, al problema, diciamo, della sicurezza, perché molto spesso interveniamo sulle barriere architettoniche nel momento in cui stiamo facendo una manutenzione su un tratto stradale o su un marciapiede, e quindi quando creiamo sicurezza. Perché la legge è che appunto vi obbliga a reinvestire una parte delle multe? Il 50%, sì. La legge impone il 50%, noi cerchiamo di reinvestire il 100%. Qual è il capitolo esatto sul quale vi vincola la legge a investire? Il capitolo, diciamo, che riguarda le attrezzature per la polizia locale, nonché gli interventi di miglioramento della sicurezza stradale. Quindi all'interno di questo noi possiamo, sì, mettere, diciamo, alcune manutenzioni, l'acquisto appunto di autovelox oppure un semaforo, quindi tutto quello che in qualche modo è dimostrabile incida sulla questione della sicurezza stradale, sulle migliorie, diciamo, per... Quindi insomma si può dire però che è giusto in qualche modo che se voi mettete le indicazioni di questi autovelox, gente che passa di lì prende la multa, è giusto investire questi soldi per migliorare la sicurezza? In Italia ci sono ancora troppi incidenti e troppi morti sulle strade, ed è credo un record forse in Europa, qualcosa del genere. Quindi è giusto dire che è giusto multare le persone che sgarrano, perché hanno sgarrato, ci sono quelli che passano rispettando i limiti, quelli che non li rispettano, e con questi soldi si migliora la sicurezza. Non c'è nulla di male a dire questo, no? Ma io penso che sia più che altro un fatto tutto sommato virtuoso, perché non utilizziamo i soldi delle tasse dei cittadini per investire in settori nei quali magari uno si sente, come si può dire, uno è un automobilista modello e dice: perché tutte le mie tasse devono andare a finire in una serie di interventi che a me non interessano, perché sono rivolti soltanto a coloro che non rispettano le regole. E quindi questo è sicuramente... È giusto che paghino di più gli automobilisti che non sono automobilisti modello. Ma penso che sia assolutamente normale, quindi noi invece reinvestiamo prevalentemente le risorse che vengono da chi non si comporta bene, tra virgolette, sulla strada, e quindi questo ci permette di cercare di sanare un neo, se vogliamo, sì, che è la città di Belluno, che ha tanti pregi dal punto di vista della vivibilità, ma che sul tema degli incidenti stradali, se si guardano, sì, le classifiche, non è messa non va bene. Senta, un'altra cosa, sì, ieri leggiamo sulla prima pagina di Repubblica, sono in arrivo in Italia le zone a 30 km con limite di velocità a 30 km per le automobili, e anche la possibilità in queste zone, nelle strade più larghe, credo di 4 metri e dove non ci siano parcheggi, una serie di circostanze, le biciclette in contromano autorizzate dal codice. In arrivo questa riforma di cui si parla da un po', è una riforma che vuol mettere la bicicletta, no, i pedoni e i ciclisti, certo, al centro anziché al margine, diciamo, della circolazione stradale. È possibile che anche voi, fra l'altro utilizzando i soldi delle multe, facciate dei lavori di risistemazione stradale in questo senso, piste ciclabili? Ma guardi, allora noi intanto abbiamo già fatto, prima che uscisse questa normativa, noi abbiamo già completato questa estate il limite di 30 km orari con zona traffico pedonale privilegiato in tutto il centro storico. Questo perché è una decisione delle città alpine d'Europa, insomma abbiamo fatto un'assemblea in cui abbiamo deciso di andare verso dei centri, insomma, che fossero più pedonali e meno transitabili. Quindi in tutto il centro di Belluno il limite è 30 km? È tutto 30 km con traffico pedonale privilegiato, cioè che vuol dire che io posso camminare sulla sede stradale e l'auto, ahimè, deve attendere che io passi e non è che può suonarmi o accelerare, insomma, sì. Deve proprio attendere, perché io non posso anche non attraversare sulle strisce, ma posso camminare sulla sede stradale. Per quanto riguarda invece la questione delle biciclette, questo è molto interessante, perché Belluno, come tante altre città, non ha spazi giganteschi dal punto di vista delle sedi stradali, perché sono state sì. fatte in altri anni in cui le dimensioni erano diverse, adesso intervenire è molto difficile. È evidente che avere uno strumento che ti permette anche di poter, diciamo, regolare il traffico contromano, ti permette di utilizzare al meglio le strade esistenti, quindi è sicuramente una possibilità in più. Noi stiamo già studiando adesso tutto un complesso di interventi, partendo nell'anno 2014, quindi un po' in questi anni un po' di fame, mettiamola così, dal punto di vista delle risorse pubbliche. Stiamo cercando di intervenire sulle sedi stradali esistenti, sì. quindi senza fare investimenti economicamente troppo impegnativi, quindi concentrando tutte le risorse solo in pochi interventi. Quindi stiamo cercando di fare degli interventi sulla viabilità esistente, cercando di creare piste ciclabili laddove non ci sono, in modo tale da poter aumentare le possibilità di girare in bicicletta, però facendolo, diciamo, con degli interventi che sono piuttosto limitati. Quindi stiamo cercando di andare in quella direzione, ma utilizzando le risorse che abbiamo al meglio. Va bene, grazie allora al sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, per essere stato grazie con noi. Buona giornata. La notizia grazie. Da cui siamo partiti era un titolo di una edizione locale del Corriere: in arrivo una pioggia di autovelox nel bellunese. Abbiamo chiarito, autovelox sì, ma visibili, non per far cassa, ma i soldi che verranno incassati, questo sì, andranno a migliorare la sicurezza di quelle strade. E il sindaco dice è giusto che paghino di più gli automobilisti scorretti di quelli corretti. 800 24 00 24. Torniamo tra un attimo anche con il primo indizio per quanto riguarda il personaggio della settimana. Si può fare cronache da un paese migliore. Buongiorno di nuovo a Carlo Gabardini. Ciao Carlo. Buongiorno a Buona tutti. Domenica. Buongiorno a te Alessio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tu che non vai in macchina perché... No, perché non ho la patente, molto semplicemente. Ti sei perso però l'intervista col sindaco di Belluno, Augusto. Stanno già arrivando un sacco di messaggi. Nel tratto con l'autovelox me ne vado a 50 orari, poi tranquillamente a 120. Bravi, dice Michele. Beh, è una teoria la sua, insomma, ma se gli autovelox cominciano a essere tanti, come accadrà a Belluno, la vedo dura, caro Michele, andare a 120, perché prima o poi la multa le arriva. Vabbè, questa era una parentesi. Una parentesi. Sulla mia musica è una munizione questa. No, scherzo, ci mancherebbe altro. Un cartellino giallo. Vogliamo dare anche subito così l'indizio, così cominciano a scatenarsi le telefonate. Ma molto volentieri. Il personaggio della settimana, Carlo, oggi il primo indizio che diamo è... Che è una donna. Che comunque in un paese maschilista come questo già secondo me ne elimina tantissimi di personaggi, perché sostanzialmente poi si parla sempre più di uomini, quindi mi sembra corretto, giusto? È una donna. 800 24 00 24. Ricordiamo anche che ci deve essere una notizia della settimana, e io direi anche di questi ultimi giorni della settimana. Basta. Hai già detto troppo. Vai Carlo. Eccoci qua. Ieri sono stato al battesimo di mia nipote. La mia nipote numero 9. Ti racconto questo perché... Quante ne hai? 9 ne ho. Ah, è l'ultima? Eh sì, è l'ultima. È l'ultima. Sì, certo, battesimo è esattamente, chiaro, è l'ultima. Esattamente. Ne ho anche una non battezzata, si può dire? Sì, si può dire. Si può dire. Mia mamma non è contenta, ma insomma è così. E comunque c'è stato questo bel momento che alla fine del battesimo sì? sono andato dietro dove c'era il don per la questione delle firme. Io non sono il padrino perché non mi sento assolutamente in grado di fare il padrino, diciamo, in questioni di fede. E il don mi ha visto e mi ha detto: ma io te ti conosco, ti ho già visto. Quindi è partita quella cosa di tipo: ma dove ti ho visto cosa. Ma ti ho visto in un video, ti ho visto in televisione. Esatto. Quindi ti ho visto. Ho paura il video fosse quello sulla Nutella. Bravissimo. C'è stato un momento di grandissimo imbarazzo dove mia sorella mi ha detto: diglielo, Carlo, no? Diglielo, diglielo. E io gli ho detto: ho capito, ma quale parte gli dico adesso al prete? Gli dico che mi ha visto camera caffè o che ho fatto o un che video? Ho fatto il video, la marmellata alla Nutella in cui si parla di omosessualità. Comunque è stato gentilissimo, carinissimo, aveva visto tutto. Ma io lo so che a proposito di video, vuoi dare un'altra notizia, sì, e vuoi signori. Prenderti anche una piccola rivincita. Non lo faccio come rivincita. Però, sì. Ci sono questi ragazzi del laboratorio, i primi mattoni, che abitano in un villaggio MAP, ovvero moduli abitativi provvisori di 100 in provincia di Ferrara, che abitano nei moduli abitativi provvisori, esatto, dopo il terremoto del maggio del 2012, che ha portato via le loro case. Questi ragazzi, assieme ai videomaker di Olo, che salutiamo, hanno realizzato un video sulla loro vita nei prefabbricati. Poi al video, questo video che si intitola Ruggito dei terremotati di 100. La colonna sonora di questo video lo hanno scelto Roar di Katy Perry. Di solito quando si fanno queste operazioni, ovviamente non è che si stanno a chiedere i diritti ai cantanti, perché fai un'operazione, diciamo, non a scopo di lucro, però capita spesse volte che invece gli aventi diritto delle musiche si fanno vivi e dicono: oh, stai usando la mia musica. In questo caso invece la bravissima Katy Perry non solo non ha assolutamente chiesto dei soldi, ma ha retweetato il video di questi ragazzi, che quindi in questo momento sta andando molto bene. E ha anche scritto una cosa carina. E ha scritto: questo è il motivo per cui mi sveglio ogni giorno. Ed è bello che lo abbia associato ad un'iniziativa come questa. Molto. È stato retweetato il video, però quante visualizzazioni ha avuto? Qui c'è la tua rivincita. A 20.000 visualizzazioni, che in realtà abbiamo poi controllato, adesso mi sembra che sia già oltre le 30.000. Sì. Ma non è una... tu dici una rivincita perché... il tuo ne ha di più. Perché il mio in questo momento ha sforato i 250.000, la marmellata e la Nutella, e ne sono contentissimo. Tanto Katy Perry, che è diventata in questi giorni la, credo su Twitter, quella con più followers al mondo, mi pare, no? Giorgio De Luca, No. Ha superato tutti, 50 milioni, sì. 50 milioni, questo è una cosa pazzesca. Pensavo che Justin Bieber fosse più avanti, ha superato. Ma... ce lo confermano. Questo che stai sentendo? È il 50 sai, milionesimo no? follower. Tu lo sai, certo, cosa stai sentendo? Cosa stai sentendo? Quello che tu stai per dire. No, tu stai per dirlo. È Katy Perry, sì. C'è stato un attimo di così, incertezza, perché non è che l'ascolto proprio tutti i giorni. Bene, in discoteca io sì, però di solito non è che mi informo sui titoli. E continuando allora sul tema, visto che in realtà il tema erano i terremotati, che però abbiamo accoppiato all'altro video, un'altra notizia direi per Giovanardi, che addirittura la tribù dei Navajo sta per aprire alle nozze gay. Sta per aprire perché in realtà la lotta è ancora lunga. Negli Stati Uniti, dove vige il Dine Marriage Act, che questa legge. Che sta facendo questo? La tribù dei Navajo, gli indiani. Navajo. Vabbè, non so, adesso ci siamo sulle pronunce, va bene. I film americani erano i Navajo. I Navajo, quelli lì che tu conosci come Navajo, che comunque sono i Navajo. Tranquillamente possiamo dire, non mi sembra un grande problema. Il problema invece è un altro, è che da questa legge spinta molto dall'allora presidente Bush, che vietava il matrimonio gay o comunque tutti i matrimoni che non fossero fra un uomo e una donna, e che venne anche approvato dal Navajo National Council, adesso stanno cercando di eliminare questa legge, quindi stanno aprendo addirittura anche gli indiani ai matrimoni gay, quindi direi che noi con Giovanardi rimarremo gli ultimi e adesso a non approvare i matrimoni gay. Una notizia che invece mi è piaciuta molto è questa che è successa a Bettona, in provincia di Perugia, dove una mamma è andata dall'allenatore del suo figlioletto che gioca a calcio nella Real Virtus, e ha comunicato all'allenatore che il figlio non si sarebbe presentato in campo, diciamo, con l'inizio dell'anno nuovo, perché giocava poco, perché secondo lei non era troppo portato e perché non ne valeva la pena. Andrea Checcarelli, che è il mister, a questo punto si era attristato molto, è andato a casa e gli ha scritto un messaggio che inizialmente doveva essere un messaggio su Facebook, poi è diventato una lettera pubblica, perché è una lettera molto bella, molto lunga, che ora ovviamente non vi posso leggere in toto. Però dice: per me che ho allenato un anno suo figlio, sapere che sua intenzione, quella di interrompere l'attività, è un fallimento anche come persona, non essere riuscito a coinvolgerlo in pieno, a stimolarlo, ad integrarlo al meglio all'interno della squadra, a fargli migliorare quei limiti E così via. E dice anche: volevo dirle che suo figlio non sarà stato il migliore, sì, fisicamente, tecnicamente, tatticamente, ma eccelleva, era il più bravo per la sua attenzione, per l'applicazione delle direttive dategli, per il rispetto che ha sempre dimostrato nei miei confronti durante gli allenamenti e dalle partite. La cosa molto bella, diciamo, che ha aperto, perché poi la madre non ha deciso di far tornare il figlio a giocare a calcio, però ha aperto un'interessante discussione anche su che cosa sia il calcio giovanile, perché troppo spesso diciamo il nostro calcio giovanile, o addirittura dei bimbi piccolissimi, scimmiotta in qualche modo la Serie A, e quindi è legata semplicemente e solamente al risultato, quasi come se fossero tutti dei piccoli calciatori di Serie A che quindi sono molto interessati a guadagnare molti soldi. Cioè, tu dici che la madre l'ha ritirato perché non giocava e non sarebbe diventato Balotelli. Ma non la dico così direttamente, perché la madre in realtà però, poi è stata molto bisogna però vedere, è che però, il meccanismo, c'è questo meccanismo, c'è quello vedere, che però dice... anche, scusa, l'allenatore che magari non lo fa giocare proprio perché vuole che la sua squadra vinca come il Milan, e invece i ragazzini piccoli bisogna farli giocare tutti, è esattamente quello che dice l'allenatore, esatto, che infatti fa un mea culpa e dice: il calcio minore e quello giovanile stanno perdendo il contatto con la realtà, scimmiottano il professionismo, ne prendono i difetti. A 10 anni i bambini non possono essere separati in squadre di A e B in base al talento e basta, non devono essere ossessionati dalla vittoria, da tecnici, da genitori, ecco, da niente e nessuno. Però allora facciamoli giocare. Lo sport giocare. È una palestra di vita, e questo in realtà, e quindi il messaggio mi sembra molto molto buono e molto si può fare. Va bene, benissimo. Allora andiamo con le prime telefonate sul quello che avete sentito, il commento, se volete intervenire sugli autovelox a Belluno, ma anche sul personaggio della settimana. Abbiamo Angelo che ci chiama da Pordenone. Buongiorno Angelo. Ciao, come va? Bene, grazie. Lei come va, Angelo? No. Tutto bene? Io sono vicino a Belluno. Sì, la sentiamo male. Spenga, come dire, la radio. Si allontani dall'autovelox. Probabilmente allontani... l'autovelox che fa interferenza. Tolga l'auricolare, tutto quello che c'è. Ecco. Quella lì è bellezza straordinaria. Nel senso... No, Angelo, così non va bene. Facciamo che ristabiliamo meglio il contatto con Angelo, che è lì, però c'è qualcosa che non quadra. Andiamo a Latina, dove ci chiama Carlo. Carlo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Grazie. Su cosa voleva intervenire? Beh, in un primo tempo avrei pensato alla Boldrini, perché nell'occhio ci do in questo momento. Però mi scusi un attimo, lei deve, così ha già dato la sua risposta, Sì, però mi hanno richiamato, che ne so. No, l'abbiamo richiamata perché tutti quelli che chiamano, noi li richiamiamo per farli andare in onda. Però non è scattato l'applauso, non è la Boldrini. Non è la Boldrini, io non ho detto che è la Boldrini. Ma lei ha detto che è la Kenghe. Sì. Lei non ha seguito il mio ragionamento. No, guardi, allora lei ha sbagliato, perché lei una volta che fa un nome in onda, adesso... Dice lei. Io ho detto, uno sarebbe portato a dire la Boldrini perché ne ho occhio il ciclone. Io già ho dichiarato che è la Kenghe. Va bene, allora facciamo così, che non è né la Boldrini né la Kenghe. A questo punto dobbiamo, lei ha dato, in sostanza, lei con questo discorso che ha fatto ha dato due risposte, questo che ci ha bruciato due risposte, ha capito Carlo? No, però è sbagliato. Io non ho bruciato nulla, se lei mi avesse fatto finire di parlare, sì, mi sarebbe accorto che io non ho bruciato nulla. Va bene Carlo, grazie, non era questa la risposta corretta. A tutti gli ascoltatori invece specifico che è proprio così, cioè uno chiama e deve dare un nome, non può dire io avrei detto la Boldrini, poi avrei detto mia madre, forse mia zia, mia nonna e mia sorella, bisogna dare una risposta sola. Roberto da Padova, buongiorno. Eccomi qua. Prego. Buona serata, buona giornata. Allora, io chiamo prima per quanto riguarda, sì, il discorso di quei velox, eccetera. E bugie dai sindaci, bugie dagli amministratori. Fanno queste operazioni solo per incassare soldi. Esempio pratico. Sì. Padova, via mare, sottomarina, c'è una strada che si chiama dei Vivaie, non c'è un'abitazione, non c'è una chiesa, una casa, una baracca, niente. Stalle e vivai. Sì. Ci sono degli autovelox fissi, puntati a 40 all'ora, a 40 all'ora. Ma il limite è quant'è? Ritorno di notte, sì, a mezzanotte e mezza dal lavoro, o prendo una multa a mezzanotte e mezza, sì, che non c'è un cane, a 51 km all'ora per 20 km in mezzo ai campi, che cos'è? Sicurezza questa? Mi scusi, però no, qual è il limite di velocità su quel tratto? 40. Ma lei ha provato ad andare via a 40 all'ora? È un po' poco, dipende. Se lei dice giustamente è una zona dove non ci sono case, in mezzo ai campi, non lo so. Non conosco questa strada. Grazie Roberto. Però dobbiamo dire una cosa, che il caso di Belluno è il caso di Belluno. Adesso lei ci sta chiamando per un'altra strada. Non è che tutti i sindaci le fanno tutte uguali le cose. Ma naturalmente il dibattito è giusto che si scateni in generale su questo, per l'amor del cielo. Però insomma, se qualcuno vuol commentare il caso così come è stato presentato al sindaco di Belluno, forse è meglio. Vogliamo fare un altro ascoltatore? Sì, Angelo da Pordenone, quello di prima. Sì, mi dispiace che non so perché non adesso però, sentiamo benissimo, sì. Ah, perfetto. No, io volevo dire, cioè, a parte che quel sindaco lì, ce ne vorrebbero tantissimi sindaci così, perché poi dopo alla fine andare in giro per la strada, soprattutto se uno è un pedone o va in giro in bicicletta, con questi animali che vanno in macchina e pensano di essere i Superman, che poi dopo uccidono le persone, cioè, è una cosa assurda. Ed è giusto che vengano puniti. Sotto quell'aspetto lì sono perfettamente concorde. Poi dopo per la domanda lì, d'accordo a Boldrini, perché secondo me è stata pestata amaramente, anche se io sono una persona abbastanza anarchica, sotto quell'aspetto lì ho fatto anche Occupy Wall Street, cioè mi piace. Lei ha fatto Occupy Wall Street? Che qualcosa cambi nel scusi nel Angelo mondo, però Angelo sì, sempre con grande non ci sente. Angelo? No. Angelo, ha fatto anche Occupy Wall Street lei? Sì. No, perché mi ma dove è andata a Wall Street proprio? No, beh, su Copy Park, sì, l'ho fatta. Sì, ma è mia moglie che vive a New York, sì, ma non è quello. Sua moglie vive a New York? Sì. E quindi lei si trova a New York in quel periodo e è andata a fare anche lei... No, ma sono appena tornato a New York, non è quello il discorso. Cioè, vivo a Manhattan, lei lavora, lei fa lo scienziato e vabbè. Ma non è quello il discorso. Senta, però Angelo, siccome ho capito, siccome però lei ha detto Boldrini, ma che è stato bruciato dall'ascoltatore precedente, appunto, e non era la Boldrini, lei a questo punto le diamo il diritto di no, Carlo, che dici? Certamente. Di dire un altro nome, perché non è la Boldrini, ma era già stato detto prima. Vuol provare con un'altra donna della settimana? Sì, no, vediamo, aspetta un attimo. Allora. No, prendo un sole qualsiasi. Vabbè. Lei legge il Sole 24 Ore? Sì. Bravo. Ma infatti perché sto facendo sicuramente è mano la Gazzetta di... si sente dal rumore ha sicuramente in mano la Gazzetta, però siccome chiama Radio 24 dice c'ha che prendo su un Sole 24 Ore. Vediamo. Vabbè Angelo, però ci deve dare subito una risposta. Ci può richiamare nel caso. Ormai ci può richiamare. Le abbiamo provato a dare un'altra possibilità, grazie. Non era la Boldrini, era già stato detto prima. 800 24 00 24, il nostro personaggio della settimana tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Welcome to the future. La campagna riparte il futuro, e questa è l'associazione di oggi con la nostra musica. Tra l'altro vi invitiamo sempre a mandarci la vostra canzone, il vostro si può fare. È questo perché in settimana ha segnato un punto a suo favore la campagna Riparte il futuro, portata avanti da Libera e dal gruppo Abele. Qual è il punto che è stato messo a segno? Finalmente questo braccialetto al polso dei parlamentari è servito a qualcosa. Ne parliamo con Leonardo Ferrante, responsabile scientifico della campagna Riparte il futuro. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Perché è stato approvato, che cosa, ce lo dica lei, in un ramo solo del Parlamento, però insomma è un primo passo. Esatto, è stato fatto questo primo passo in Senato. Da oggi, o meglio da qualche giorno fa, il 416 ter del codice penale, ossia la norma che disciplina lo scambio elettorale politico-mafioso, è diventato più stringente. Mm-hmm. Come chiedevate voi? Noi avevamo raccolto 277.000 firme, mettendo insieme tutti questi cittadini che vogliono questo cambio affinché la politica non ricorra alla corruzione e le mafie siano fuori dal mondo della politica. Ecco il cuore di questo articolo. Perché diciamo che com'è cambiato questa modifica sulla legge del voto di scambio? Perché in precedenza era considerato voto di scambio soltanto se c'era passaggio di denaro, una cosa che voi, ma non solo voi, insomma, consideravate troppo poco, perché invece il voto di scambio si può sostanziare in altri modi. Sì, diciamo, la corruzione può avvenire in forme molto più complesse rispetto alla classica tangente. C'è la cosiddetta altra utilità, qualcosa che la legge già prevede per altri reati, ed era davvero strano che non lo facesse anche per questo reato così pericoloso, perché appunto permette alle mafie di entrare all'interno della vita economica e sociale del paese. Quindi tutti gli altri scambi, non solo di denaro, quelli che possono essere i favori, le promesse, le informazioni sugli appalti, quelle cose che davvero minano l'economia e la società del paese, dal reato non erano considerate. Adesso lo sono, o meglio, speriamo lo saranno nel giro di poco, con l'approvazione anche alla Camera. Perché è stato votato appunto al Senato questa modifica di questa legge. Tecnicamente cos'è? Una nuova legge, una nuova norma di legge, un emendamento a qualcos'altro, Ferrante? Sì, è una modifica al 416 ter, quindi benissimo, praticamente una nuova legge, cioè viene riscritto questo articolo su iniziativa popolare. Solo che la grande rivoluzione è che è stato fatto attraverso una petizione online. Ecco, è questo che si può considerare davvero una cosa inedita anche per la politica italiana, per la società italiana, perché voi siete partiti con questa petizione online, poi avete chiesto, avete fatto firmare anche a molti parlamentari che, entrando in Parlamento, si sono messi il braccialettino attorno al polso per ricordarsi di questa cosa. Quanti parlamentari erano? Noi abbiamo raggiunto 878 candidati, perché siamo partiti già dalle elezioni, che corrispondevano a un terzo della Camera e un terzo del Senato. Con l'andare del tempo hanno quasi raggiunto la metà. Quindi abbiamo fatto questo doppio lavoro, da una parte con la società civile, affinché la voce non era quella solo di Libera, di Gruppo Abele, di Leonardo, ma era la voce appunto di tutte queste persone. Sì. Dall'altra parte, quindi, il dialogo con le istituzioni e con la parte che voleva questo cambiamento. Ecco, la cosa davvero bella, incredibile, e vediamo poi se si chiuderà anche con l'ultimo passaggio alla Camera, proprio questo, cioè si parte da una petizione online, si coinvolgono, grazie al lavoro che avete fatto voi di Riparte il Futuro, i parlamentari, e poi se ne vede il frutto, il risultato, veramente, con un voto. Cioè praticamente si può dire che la società civile, tramite Riparte il Futuro, ha davvero dettato l'agenda su questo del Parlamento. Secondo me è un risultato bello in sé, ma anche per quello che rappresenta come idea anche per il futuro. Si può rifare, no, questa cosa qua, anche per altre iniziative, Ferrante? Complimenti. Si può rifare, noi speriamo di aver inaugurato una stagione di un nuovo confronto politico, di un nuovo metodo politico. Noi insisteremo sul tema della lotta alla corruzione. Sì. Questo è solo il primo passo, tra l'altro, come ripete anche spesso Don Luigi Ciotti. E poi, insomma, c'è tanto da fare. Di iniziative ce ne sono altre in campo, ne riparleremo sicuramente. Grazie intanto per essere stato con noi, Ferrante, buona domenica. Grazie a voi, e ancora invito alla firma e a unirsi a questi 378.000 cittadini. Basta andare online, Riparte il Futuro, trovate tutto. Grazie mille. Andiamo invece adesso di nuovo, torniamo con qualche ascoltatore, prima di dare poi di nuovo la linea al giornale radio. Chi facciamo? Michelangelo da Caserta, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Mi veniva in mente un po' di gossip in questa settimana con la Ilaria D'Amico. È la sua risposta, perché abbiamo già avuto con un altro concorrente che ne ha date due in una. Bravo, bravo, grazie Michelangelo. E la notizia? Però, la notizia, giusto? La notizia è della querela, il gossip tra la Seredova, la moglie di Buffon, e Buffon con la D'Amico. era un po' di settimana scorsa, perché settimana scorsa avevamo, sì, è vero, di settimana avevamo scorsa toccato questo tema, però purtroppo non è Ilaria D'Amico, non è lei, forse anche perché di settimana scorsa, forse sì, perché poteva essere papabile, no, come personaggio. Giorgio dalla provincia di Venezia, benvenuto. Pronto, buongiorno. Prego. Volevo dirle, sì, pronto? Volevo dire che gli assessori alla viabilità di tutti i comuni, tutti, quando sono in giro, telefonano in comune dicendo come siamo messi con le multe. Mi dica lei se queste... Ma scusi, Giorgio, lei che ne sa di cosa fanno gli assessori tutti alla viabilità d'Italia? Questa è così, l'ha buttata, sì, un po' lì. Fanno così. Ma in che senso fanno così? Nel senso che... Hanno bisogno di fare cassa? E poi sperperare i soldi come li sperperano in Italia. Ah, beh, però magari per fare anche delle cose buone, o è sicuro che è solo per sperperare? C'è anche la legge che li vincola. Sicuramente fanno anche cose buone, però sì, la maggior parte dei soldi, lo sanno, che levano tutti sperperati. Ho capito, però cosa si può fare? Quindi possiamo tutti, diciamo, andare contro la legge, perché tanto le multe poi servono ai politici. No, guardi, io sono il primo che per la legge sono con la legge, devo rispettare i limiti. Però certe cose... Uno sfiduciato nel fatto, grazie Giorgio per aver chiamato, mi sembra chiaro, no? Nel fatto che poi i politici, i comuni, sì, spendano, ma bisogna avere... Ma non può essere una giustificazione, se prendi una multa paghi la multa, se dopo guardare... c'è qualcuno, diciamo, che ruba quei soldi, ruberà quei soldi, non è che non c'entra niente con le multe, questo è che voglio dire. Bisogna guardare caso per caso, mi raccomando. 800 24 00 24, torniamo dopo il giornale radio. Si può fare cronache da un paese migliore. Così, cari ascoltatori, siamo rientrati sulle note di Run to the Hills degli Iron Maiden, un brano del 1982, che oggi è la nostra canzone, il vostro si può fare. Ce l'ha segnalato Antonio Gregorio Manfredi, questa canzone. Tu lo sapevi che gli Iron Maiden avevano fatto una canzone sugli indiani d'America? No, non lo sapevo, non lo sapevo. E non so neanche pronunciare alcune tribù, quindi... Navajo. Eh sì, perché incredibilmente questa canzone di Iron Maiden è appunto dedicata alla sopravvivenza, alla lotta degli indiani d'America, appunto in America. E quindi noi vi invitiamo a scriverci le vostre canzoni, il vostro si può fare, perché vogliamo creare così la colonna sonora anche del programma, scoprire in note il si può fare degli ascoltatori. Adesso gli ascoltatori invece li troviamo in linea, collegati con noi, come per esempio a Rossella dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Rossella. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Per me è Alessandra Moretti. Ah, così, tac. È la sua risposta? E qual è la notizia, sì, alla quale è legata? La notizia è la denuncia che ha fatto in Parlamento ai 5 Stelle. Che denuncia? Hanno rivolto alle deputate. Ah, sì. Perché è stata una di quelle delle prime parlamentari che ha reagito, diciamo, alla questione delle accuse, sì, sessiste da parte del Movimento 5 Stelle contro la Boldrini. Sì. Direi che dalle nostre titubanze è ovvio si che il personaggio che non è Alessandra Moretti. Grazie comunque, Rossella. Grazie mille. Grazie a voi, buongiorno. Arrivederci. Non è lei. Adesso poi diamo un altro indizio, cerchiamo di essere un po' più buoni, perché oggi si vince un bel premio. È la collana BBC English, che viene allegata al Sole 24 Ore, a puntate, ma noi che la diamo tutta oggi in un colpo solo. Direi che già il premio anche potrebbe essere un indizio, potrebbe aiutare anche il premio. Attenzione, ecco. Attenzione, va bene. Adesso poi saremo un pochino più precisi, però già questa è un'indicazione. Michele da Bari, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Ecco, sono d'accordo col sindaco di Udine, di Belluno, riguardante la velocità di 30 km all'ora, perché nelle grandi, piccole città o medie città 30 km già sono più che sufficienti in un traffico cittadino, e che se fossero regolarizzati e programmati i semafori ci sarebbe una buona velocità e nello stesso tempo anche una attenzione maggiore anche a chi è più anziano, e chi ha i bambini e roba varia, perché oltre i 30 chilometri non si deve andare, non si, cioè si deve regolarizzare. Vabbè, insomma, Michele, lei diciamo, deve fare, è un fautore, fare, un sostenitore, appoggia questa cosa di andare a 30 chilometri all'ora nelle città, in effetti è la nuova, diciamo, tendenza. Soprattutto nei centri storici, nelle parti con le strade più strette. Forse nella parte, esatto, nella parte sì, più centrale della città, perché poi quando si inizia ad andare forse verso la periferia, Milano, così 30 km è dura. Ma non so, io non ho la macchina, quindi a me va benissimo. Io a piedi 30 km non ce la faccio di sicuro. Va bene, chi abbiamo? Guido dalla provincia di Lecco, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, per me è la regina Elisabetta. Per quale motivo? Perché mi sembra che abbia sforato il suo budget e poi abbia detto a suo figlio: d'ora in avanti seguimi, perché così impari eventualmente. Qualcuno ha scritto adesso: Carlo deve lavorare, spaventato, esatto, dal fatto che la madre l'abbia coinvolto. A parte che è molto bello come lo dice, mi pare che la regina Elisabetta abbia sforato il suo budget, mi sembra molto bella come espressione. Molto leggero, sì, così, sì, molto, sì, molto soft. Guido. Ci dispiace, purtroppo no, non è la regina Elisabetta, anche se poteva, diciamo, con tutti gli onori esserlo, sia per la notizia sia per il personaggio. Sì. Poi volevo aggiungere una cosa. Prego, prego. Quel discorso che avete fatto col sindaco di Belluno, sì, giustamente è meglio i T-RED, cioè no, quei rilevatori di velocità, sì, che i continui dossi che vengono messi sulle strade. Che, a lei danno fastidio i dossi? Sì, perché è una limitazione che dà fastidio a tutti. Ma perché dà fastidio? Perché si è costretti a rallentare? No, si è costretti a, sì, il rallentamento va fatto, ah, no, sicuramente. Però danneggia tutti, soprattutto poi dopo è chi un danneggia? Guaio dopo una nevicata. Ah. Se notate gli spazzaneve quanti ne tirano su di te. Ah, beh, questo è anche vero, non ha mica tutti torti. I costi sono elevati e i disturbi. Non lo so, qua poi si va su, grazie comunque, si va anche su un aspetto poi un po' tecnico, no? Cioè il dosso, in effetti non ci avevo pensato, lo spazzaneve. È un sacco che non penso ai dossi, posso dire, però effettivamente è che la domenica mattina siamo più di 30 anni, esatto, che non ci pensiamo. Va bene, Barbara dalla provincia di Brescia, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, complimenti a tutti e due, siete simpatici e molto professionali. Grazie per la compagnia. Ci proviamo, buongiorno. Sì. Lei su cosa voleva intervenire, Barbara? Volevo partecipare al gioco. Sì. E, secondo me la protagonista di oggi è Deborah Serracchiani. Perché? Per due motivi. Uno, perché era riuscita ad abolire le province, che però questo non c'entra tanto col suggerimento del corso d'inglese. E l'altro, per la sua battaglia per la sede di Porcia dell'Electrolux. Barbara, non è male questa, eh? Non è scattato l'applauso, in effetti non era la Serracchiani, comunque grazie, in effetti le notizie ci stavano, la questione dell'abolizione delle province, c'è stato un voto del Consiglio, della Giunta, insomma del Consiglio regionale del Friuli, non so di quale passaggio si tratti, però è stato titolato così in settimana, l'abolizione delle province è una cosa che sicuramente non si fa con un voto solo secco così, e neanche con un unico articolo di giornale, direi che no. È una roba di cui ne parlano, però da c'era questa notizia, e poi c'è anche Porzia, lo stabilimento per cui lei ha litigato anche col ministro Zanonato, lo stabilimento Electrolux, però non era lei. Le notizie c'erano, diciamo, notizie però c'erano. Il forse siamo noi non è che lei. Abbiamo sbagliato, allora a questo punto devo è un altro tipo di notizia, diciamo. Sì, dai. Qua è una notizia, diciamo, più se vogliamo possiamo dire a carattere anche un po' più internazionale. Sì. Vabbè, però diamo l'altro indizio. Vogliamo dare l'altro indizio? Sì. Allora, visto che dice internazionale, visto che regaliamo il corso d'inglese, direi che certamente il nostro personaggio guarderà il Super Bowl stasera. Tra l'altro è l'evento sportivo più guardato al mondo, quindi sì, non è che proprio vi abbiamo eliminato tutti, No, nel senso che credo che sia visto da più di un miliardo di persone. Vediamo, questo è un bel aiuto. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E diamo il benvenuto al ministro dell'Ambiente Andrea Orlando, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Che ritroviamo con piacere il ministro Orlando per parlare prima di tutto Vabbè, cioè, ogni volta che c'è il maltempo, poi bisogna fare un po' un punto anche su quello e su quello che si può fare da quel punto di vista lì. Però vogliamo partire da un'altra notizia, perché il 5 febbraio ci sarà la prima giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Primo passo di un piano nazionale da lei lanciato di prevenzione appunto dello spreco alimentare. Faccio solo un breve inciso, una piccola parentesi per gli ascoltatori. Non stiamo parlando di una cosa così, diciamo, che interessa poche persone o chi se ne frega, il ministro dell'ambiente deve fare altro, deve occuparsi di altro. Stiamo parlando di un problema gravissimo in Italia, cioè ci sono persone che non hanno abbastanza da mangiare e c'è uno spreco in Italia valutato oltre 70 kg di cibo a testa a persona all'anno, oppure in cifre tra 8 e 10 miliardi, poi a seconda di chi lo valuta 10 miliardi di euro buttati via in cibo ogni anno. È una cosa che fa male all'economia e soprattutto a chi poi di questo cibo avrebbe bisogno. Quindi un piano nazionale da lei lanciato, cosa può fare il governo, lo Stato? Ministro Orlando, le chiediamo su questo, che è una cosa su cui in genere intervengono il volontariato, le organizzazioni di volontariato, però lei vuol fare un passo in più, vuol fare intervenire direttamente il governo su questo, perché? Aggiungo, perché non soltanto c'è il fenomeno dello spreco e questa ingiustizia che si viene a determinare di persone che non possono mangiare, di mangiare che si butta via, ma anche il mangiare che si butta via diventa un costo per la collettività, perché alla fine ciò che viene prodotto con un spreco di risorse ambientali ed economiche deve essere smaltito e va a finire in discarica, quindi diventa un costo complessivo per la collettività. Cosa si può fare? Si possono mettere insieme tutti i soggetti che in qualche modo stanno lungo il percorso nel quale si perde il cibo, cioè i produttori, i distributori, i distributori ai vari livelli, chi opera nella logistica e poi da ultimo naturalmente i cittadini. E si può intervenire perché spesso lo spreco non è soltanto perché il frutto del fatto che si compra troppo, è anche la conseguenza di una cattiva capacità di conservazione degli alimenti, di una difficoltà a gestire appunto la logisticamente la distribuzione. E quindi noi chiameremo tutti i soggetti, che tutti i portatori di interessi, tutte le grandi catene della distribuzione, per appunto approntare questo PIMPA, se l'abbiamo chiamato piano contro lo spreco, che prevederà una serie di misure appunto di razionalizzazione, di innovazione tecnologica, di miglioramento delle modalità di conservazione per raggiungere questo duplice obiettivo, quello di evitare questa contraddizione, di utilizzare ciò che ciò che rischia di essere buttato via portandolo a chi ne ha bisogno, e questo è l'ultimo segmento del ragionamento, ma contemporaneamente anche evitando appunto un costo per la collettività. Senta, lei dice però appunto migliorare, razionalizzare la distribuzione, le tecniche di conservazione eccetera, ma stiamo parlando però di interventi diciamo in cui il governo incentiva cambiamenti tecnologici o cose, perché una legge per esempio c'è già. Cosa può fare lo Stato, il governo? Può fare delle leggi, c'è una legge del 2003, quella credo del buon samaritano, credo sia ancora valida, quella che consente la distribuzione dei prodotti alimentari avanzati a chi ne ha bisogno tramite le organizzazioni di volontariato. Ma se ancora oggi, nonostante questa legge che consente di fare questo, siamo a uno spreco così elevato, vuol dire che qualcosa non è andato bene, cioè lo scatto in più che il paese deve fare, il governo che ruolo ha? Cioè incentivare, coordinare l'aspetto della logistica, o fare degli incentivi fiscali, oppure cambiare qualche legge? No, si può fare tutte le cose che lei ha citato, cioè si può coordinare e mettere meglio diciamo in fase i diversi passaggi che vanno dalla produzione alla tavola dei cittadini. Si può lavorare per un sistema di incentivi per chi migliora queste modalità di distribuzione. possano introdurre delle norme. Queste per esempio sono già previste nel collegato ambientale che deve essere approvato nelle prossime settimane alla Camera, che prevedano il fatto che per esempio chi appronta un piano di contrasto allo spreco abbia una condizione di privilegio nelle gare d'appalto per la gestione delle mense. Si può fare in modo tale, si possono costruire anche delle campagne di comunicazione a partire dalle scuole per una acquisto e un consumo consapevole. Perché oggi, mi scusi, io non lo sapevo, un'azienda che gestisce una mensa, che partecipa a una gara d'appalto tra due aziende, una che fa dei piani di recupero contro lo spreco alimentare e una che non lo fa, sono parificate. Invece voi volete introdurre una differenza, mi sembra alquanto saggio. Parlava anche di incentivi, c'è però uno stanziamento, un budget annesso a questo piano nazionale contro lo spreco alimentare, una cifra che il governo mette? Ma ora partire dalla cifra rischia di essere fuorviante. Adesso lavoreremo per capire esattamente quali sono le misure, confrontandoci con i soggetti interessati. Comunque vorrei chiarire che questo intervento si colloca all'interno di un piano generale di prevenzione della produzione dei rifiuti, per il quale saranno stanziate delle risorse e si potrà accedere anche a fondi strutturali a partire dal 2014. Quindi adesso costruiamo, diciamo, tutti questi diversi passaggi, poi individuiamo anche le modalità di incentivazione. Comunque c'è la possibilità di accedere a fondi, anche a fondi europei in questo senso. Senta, le voglio però chiedere anche un commento sul visto che ancora in queste ore lei è tornato a dire speriamo che rapidamente il disegno di legge varato dal governo prima di Natale contro il consumo di suolo venga votato dal Parlamento, perché così finalmente metteremo un punto su questa vicenda. Ogni volta che c'è un'alluvione, la causa, ormai l'abbiamo capito, è anche quella. Quali sono i tempi di questa approvazione? C'è una priorità che la maggioranza vuol dare a questa legge? Guardi, io questa legge l'ho portata a giugno in Consiglio dei Ministri, è stata 8 mesi ferma la conferenza unificata delle regioni, poi ha dovuto attendere la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, ora finalmente si fanno i primi passi in Parlamento. Siccome tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione hanno dichiarato un orientamento favorevole a misure che vadano in questa direzione, mi auguro che si possa fare rapidamente, perché è chiaro che ci sono le bombe d'acqua, c'è la cattiva manutenzione, c'è la scarsità di fondi per il contrasto al dissesto, però poi c'è anche appunto un'attività di prevenzione, di stop al consumo che va fatta rapidamente. Questa legge non risolverà ciò che stiamo vedendo in questi giorni, però può evitare che peggiori. Però evitiamo che peggiori ed evitiamo davvero che ogni volta ci si debba e ci si possa rimproverare qualcosa da questo punto di vista. Ma lei pensa, non so, entro la primavera, entro l'estate, perché poi non io si mi auguro sa che entro la primavera la legge possa essere approvata. La legge vale per il futuro, credo di aver capito, cioè per il futuro non si potrà più costruire se non riutilizzando o recuperando aree che in qualche modo sono già dedicate a questo. Ci sono però dei comuni, delle regioni, degli enti locali che spesso chiedono strumenti per poter interrompere delle lottizzazioni che sono state fatte in passato, quando ancora si pensava di poter costruire tranquillamente, magari 10 o 20 anni fa, perché lei sa che le cose hanno degli iter lentissimi. Per queste situazioni di mezzo la legge prevede qualcosa? Il governo può fare qualcosa? Può dare degli strumenti? No, gli strumenti in questo senso può dare una sponda, diciamo così, alla pianificazione urbanistica, che però per la nostra legislazione è di competenza regionale. Può incentivare modalità attraverso le quali si opera il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, piuttosto che appunto il consumo di nuovo suolo. E può anche, questo io credo sia molto importante, disincentivare delle prassi anche dovute a a condizioni finanziarie che hanno spinto per il consumo del suolo. Mi spiego, spesso il consumo di suolo è anche la conseguenza di un'esigenza di fare cassa. La legge impedirà la possibilità di usare gli oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente, che è stato, diciamo, uno dei meccanismi che ha spinto tantissimo. Questo è importante. A proposito del fare cassa, lei diceva che quello che può fare il governo è di incentivare il recupero, per esempio, c'è neanche nella legge del patrimonio rurale dei centri storici. Su questo c'è uno stanziamento, però, perché sennò sembra che parliamo solo di beh, no, il governo è, in questo c'è già, lo stanziamento è arrivato prima della legge sul consumo, perché quest'anno, anzi lo scorso anno, abbiamo introdotto l'incentivazione per gli eco bonus e per le ristrutturazioni edilizie. Quest'anno con la legge di stabilità l'abbiamo confermato. Ora si tratta però, come dire, di legare questa incentivazione a un meccanismo che impedisca il consumo di suolo. Le due cose devono andare insieme. Io ti incentivo, ma contemporaneamente ti dico anche basta all'utilizzo di nuovo suolo. Una cosa che nella legge sarà prevista è una facilitazione dal punto di vista della possibilità di intervento, perché spesso si costruisce su suolo vergine, perché intervenire sull'esistente è complicatissimo. È per quello che io parlavo di incentivi, cioè di stanziamenti, insomma, che il governo ci metta sopra dei soldi, perché questo potrebbe essere un volano straordinario anche per l'economia. Solo che se non si incentiva, al di là dell'eco bonus, che però credo sia relativo soprattutto a ristrutturazioni singole, insomma, se si vogliono fare piani di intervento sul dissesto idrogeologico oppure su intere zone, diciamo, da riqualificare, ci vogliono probabilmente degli incentivi, no? Del governo. E questa la... Sì, no, ma gli incentivi ora non tutti sono adeguati al fabbisogno, ma gli incentivi ci sono, sparpagliati nelle diverse voci di bilancio. Il problema è vero che spesso questi incentivi hanno una difficoltà ad essere spesi per ragioni diverse. Da un lato perché ci si trova di fronte a una farraginosità dei meccanismi autorizzativi. Noi nel collegato ambientale stiamo introducendo una semplificazione della filiera dei soggetti che presidiano al tema del dissesto idrogeologico. Dall'altro perché è complicatissimo per una sovrapposizione di strumenti di pianificazione intervenire sul patrimonio esistente. Si pensi alle aree urbane, ma si pensi anche alle aree industriali dismesse, dove l'attività di bonifica è complicatissima, mentre per esempio si continuano a costruire nuovi capannoni. Abbiamo aree non più utilizzate perché inquinate e abbiamo capannoni che fino a qualche anno fa sono continuati a crescere. Quello che può fare lo Stato è sicuramente dare incentivi. Anche in questo senso abbiamo un meccanismo che è legato ai fondi strutturali, che può consentire di sostenere progetti di trasformazione urbana e di riqualificazione, ma contemporaneamente soprattutto snellire i procedimenti burocratici e consentire appunto che la trasformazione sia più facile, sia più facile e diventi, diciamo, l'attività prevalente dell'edilizia, perché è chiaro che anche l'edilizia in futuro non potrà riprendersi, perché sulla base della realizzazione di villette a schiera o di condomini, è la domanda stessa, è l'andamento della domanda che ci dice è questa, e dovrà sempre di più ricollocarsi su il recupero, la trasformazione, l'innovazione di ciò che è già stato costruito. Senta, un'altra questione riguarda, è stato appena approvato il decreto sulla terra dei fuochi, sicuramente un segnale importante, però sembra ancora, almeno a me o ad altri, troppo poco. Esempio, i reati, inasprite le pene, però poi occorrono i controlli, se no, come sappiamo, continuano ad esserci roghi e interramenti. Le bonifiche, si prevedono nuove mappature, ma le mappature sono già state fatte, sembra di sapere già dove sono stati sotterrati i veleni. Infine c'è il fondo per fare le bonifiche, ma che si finanzia con i sequestri alla camorra, alla mafia, però quindi non c'è un budget previsionale che un comune, una regione può avere per investire nella bonifica, chiamando un'azienda a dire ripuliscimi questo territorio, perché dipende se ci saranno questi sequestri o no. Io ho detto, il decreto si colloca in una strategia più generale che si realizzerà con una serie di provvedimenti. Bisogna riorganizzare la filiera dei controlli, c'è una legge che è già stata incardinata in commissione e che consentirà di semplificare, di rendere più efficienti il sistema dei controlli, non solo in quella zona ma in tutto in tutto il paese. Le bonifiche non sono finanziate solo con le confische, ci sono invece fondi anche in questo caso legati al Fondo Sviluppo e Coesione che consentiranno la realizzazione di interventi a carico dello Stato. È un segnale, diciamo, di attuazione del principio che inquina paga, il fatto che si possa utilizzare ciò che sarà confiscato per fare le bonifiche, ma non è la sorgente prevalente delle risorse. Per quanto riguarda la mappatura, noi non prevediamo nuove mappature, ma sì, prima di tutto la rimessa a sistema delle mappature che già sono state realizzate, perché il problema è che mi raccomando, non facciamo il lavoro doppio, perché sennò poi è una perdita di tempo e si spendono anche soldi inutilmente. Sì. In questi vent'anni ognuno si è fatto la sua analisi del territorio, e però il problema è che spesso è in contraddizione con quella del soggetto confinante dal punto di vista delle competenze istituzionali. Tant'è vero che c'è un comitato che è stato anche un po' criticato, perché fatto da tantissimi soggetti che sono tutti quelli che hanno fatto mappature, che ha il compito entro un termine congruo di costruire un'unica banca dati. Questo è l'obiettivo che per quanto riguarda dati. I fondi, ministro, le ritiene insufficiente? Assolutamente sì, in questo caso non ci sono fondi, c'è un plafond consistente che è legato, che può attingere complessivamente, guardi, dipende quanto siamo in grado di progettare rapidamente, perché si attinge al fondo coesione che è oltre 40 miliardi di euro, quindi diciamo ho capito, però ci sono 40 miliardi a disposizione per 40 miliardi per fare le bonifiche, no? Ma guardi, il problema è che in Italia spesso cioè, si può dare una cifra una volta, mi scusi, non vorrei essere troppo incalzante, il decreto è stato approvato 2 giorni fa, però una cifra che di riferimento per chi, per i comuni, per le regioni, per gli enti che vogliono fare queste bonifiche, cioè dove vanno a prendere questi soldi? No, guardi, il meccanismo è molto semplice, si dice sostanzialmente voi fate la mappatura, fate la progettazione delle bonifiche, una volta fatta ci sono fondi appositi per questo, una volta voi avete una priorità rispetto ad altri tipi di intervento per attingere a quel plafond complessivo. Quindi diciamo così, ora non vorrei creare distorsioni, ma sostanzialmente è un finanziamento a piedi lista rispetto a quanto sarà necessario e quanto sarà individuato. Cosa vuol dire un finanziamento a piedi lista, mi scusi? Vuol dire che se c'è il progetto c'è il ci sono i soldi, non ci sono problemi di soldi, quindi nessun comune, a chi tocca fare le bonifiche, ai comuni o alla regione? No. L'attività è fatta in collaborazione tra la regione, naturalmente in un rapporto con una serie di soggetti a partire dal Ministero. Quindi, le regioni non hanno più alibi, la regione in questo caso Campania. No, in questo caso però si tratta di una misura eccezionale, perché ora non vorrei dare una misura fuorviante. Riguarda la regione Campania e la zona perimetrata, quindi in questo senso si tratta di una misura assolutamente eccezionale legata alla gravità di questo fenomeno. Va bene. Senta, le vogliamo fare anche un'altra domanda, perché qua si può fare Carlo Gabardini ed io ci divertiamo anche a chiedere agli ascoltatori, ai nostri ospiti, se hanno degli impegni di miglioramento personale, del resto il programma si chiama Si può fare, e quindi insomma vogliamo sentire anche se lei, Carlo, anche perché soprattutto poi richiamiamo, buongiorno ministro, cioè se lei ci dice un suo progetto personale e con una scadenza, tipo non so, smettere di mangiare le brioche piuttosto che di fumare, ma non so se lei fuma? No, non fumo. Quindi questo, per esempio abbiamo avuto un ascoltatore che ha detto voglio andare in bici al lavoro di più e voglio e soprattutto usare quando piove. Per un ministro dell'ambiente, lei come la usa la bici? Poco, per la verità, ora direi una balla, insomma. Ecco, quindi potrebbe essere un impegno quello di... No, è un impegno che non prendo, perché ho visto che per muovermi in bici ho visto altri che si muovono in bici devono far muovere altre 4-5 persone dietro, mi pare controproducente. Beh, in che senso altre 4-5 persone? Guardia del corpo, le scorte, i collaboratori, tutti in bici, sarebbe bello però. Abbiamo un obbligo di tutela. Ma è bellissimo. Mi ha dato una scusa bellissima per mia mamma. Io a questo punto voglio diventare ministro, perché dopo, come giustificazione, posso dire: io vorrei andare in bici, ma non vado posso. In bici perché sennò do fastidio. Cioè, non so, un'altra. Ha ragione. Vuol fare, magari sport, qualcosa di più quest'anno, una cosa che vuol condividere con noi, ce l'ha? Ma guardi, vorrei. Questo sì, vorrei. avere la possibilità di studiare di più, in particolar modo sul tema, sulle prassi che sono state utilizzate proprio sul tema manutenzione del territorio. Vorrei la possibilità adesso in questo momento di fare una ricognizione complessiva di quello che si sta facendo nel resto d'Europa sul tema manutenzione del territorio. Beh, mi sembra un bellissimo proposito. Naturalmente gli uffici ci sono uffici che lavorano su questo, non vorrei che i cittadini pensino che tutto è rimesso alla mia buona volontà, però mi piacerebbe anche come elemento studiare un po' di più, e questa cosa è anche perché lei, un po' la pecca che è stata detta è che non è laureato e quindi diciamo sente anche forse un po' questo handicap, diciamo così, come ministro. Guardi, da questo punto di vista, qualunque laurea avessi avuto, sono talmente tante le cose che bisogna imparare per fare il ministro che non credo che sarei stato messo al riparo. Ottima Ho risposta. Una laurea che mi sono preso facendo l'amministratore locale, che penso che sia che sia abbastanza utile per affrontare i problemi. Una laurea ad honorem, diciamo, non una laurea. Non me la do. Però ecco, studiare questa cosa qua è un impegno bello che ha preso qua con noi. Mi piacerebbe capire esattamente che cosa sta facendo il resto d'Europa sul fronte manutenzione del territorio. Questa bene, bene. Allora, noi ci risentiamo, a parte per altre notizie, sicuramente nel corso dell'anno, per vedere se è riuscito. Però poi l'impegno deve essere concreto, ci deve dire cosa fa, tipo che ha letto quel tal libro piuttosto che ha seguito quel seminario, perché noi vogliamo proprio la concretezza. Va bene? Lo farò scrupolosamente. Grazie. Mi prenderò nota di tutte le letture. Grazie mille, ministro. Buona giornata, buona domenica. Anche a lei, salve. Hai sentito? Allora, insomma, questo qui c'è, questo impegno a studiare. Fra l'altro, lo devo dire che ma però gli impegni bisogna che siano molto più precisi, perché così diventa difficile poi ministro, chiamare. Sai, non è che ti può dire. E poi non vanno estorti, nel senso che o uno ce l'ha o non ce l'ha. Però ce l'aveva questa cosa qua, secondo me. Sì, proprio perché lui parte molto bella con questa cosa di non avere la laurea. Beh, siamo andati lunghissimi con la pausa. Sentirsi con un papà senza santi da pregare, si può fare. Ci sono gli ascoltatori che ci scrivono che il ministro Orlando non vuole mai dare i numeri, che non so se è una cosa buona o no. È ottima, direi. Vabbè, però direi che ha spiegato con molta precisione, no? Sì. Se i numeri, effettivamente, era la domanda precisa sugli investimenti. Sì, è su questa cosa qua che si ferma tutto, perché un ministro come quello dell'ambiente, per quello io chiedo sempre le cifre, se non dai i numeri, delle cifre che vengono stanziate per riqualificare il patrimonio, per investire e recuperare la terra dei fuochi, sono leggi. Se sono leggi a finanziamento zero, non servono a un tubo. Però è anche vero che ogni volta che dà il numero, che qualcuno salta su e dice: dov'è la copertura? Dove è andata a trovarli questi soldi? Non è vero, non ci sono. Non sarebbe meglio spenderli per abbassare le multe delle biciclette in provincia di Lucca? Ecco perché è un esempio qualunque, numeri, sì. Non vorrei che adesso chiamasse il sindaco di Lucca. Va bene, facciamo qualche ascoltatore al numero 800240024. Anna da Alessandria, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sì. Secondo me il personaggio è Amanda Knox. Amanda Knox. Neanche da chiedere il perché, perché lo sappiamo tutti. Sulle prime pagine di tutti i giornali, dopo la condanna, in settimana condanna al nuovo processo d'appello, 28 anni e 6 mesi. Esattamente. Però non è Amanda la risposta. Grazie, Anna. Non era lei, mi dispiace, perché poi gli ascoltatori ci provano. È rimasta male. Sei rimasta male anche tu. Pensava, perché forse, cosa avevamo detto? L'altro indizio che avevamo detto. Che guarda Super Bowl. Che guarda Super Bowl, perché è americana e in effetti si era avvicinata. È vero, e tra l'altro ricordiamo anche che chi chiama può anche chiamare per dare il proprio buon proposito, che poi noi richiamiamo per vedere se si sono attenuti a quello che hanno promesso davanti alla nazione. Giusto? Come abbiamo fatto con come abbiamo fatto. Oggi l'ha fatto solamente il ministro, che si è ripromesso di studiare di più e che quindi richiameremo. Non ci siamo dati una timeline, diciamo, no. una deadline, chiedo scusa. Studiare fra 3 mesi lo chiamiamo? Cosa segno? Io direi sì, 3 mesi. 2 maggio, bene, primo maggio. Se in 3 mesi non ha letto neanche un libro, non ha fatto neanche un seminario, vuol dire che ha buttato via un quarto dell'anno, certo, non mantenendo fede al suo buono proposito. Va bene. Ma diamo un altro indizio? No, sentiamo prima Massimiliano da Modena, va? Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire Scarlett Johansson. Buonera, buona, applausi Massimiliano. E così in sordina. Così. Però devi dirci la motivazione. Se no, la notizia. Allora, le due notizie che mi sento malissimo, sento un ritorno. Comunque, le due notizie che coinvolgono Scarlett Johansson sono due. Una che appunto la Fox ha deciso di togliere lo spot dal Super Bowl perché faceva la comparazione con la Coke, sì, e la Pepsi. Bravo. E l'altra che ha lasciato l'Humanitas dopo la polemica con lo spot giusto per la Dream Pepsi, la Dream Cola. Sì, lei ha fatto un mix pazzesco. Però sei precisissimo, allora, e molto preparato. Allora, intanto non è la Dream Pepsi, la Dream Cola, ma è la Dream Soda. Poi l'organizzazione internazionale non è l'Humanitas, che è una clinica qua di Milano, ma è la Oxfam. Però le notizie erano giuste, ha sbagliato i nomi. Bravo Massimiliano. No, perché... l'Humanitas, perché era tutta settimana che ci pensavo al personaggio positivo ed era Alberto Mantovani che avete citato. Scusi, in un altro è tutta la settimana che pensa al personaggio positivo? Ma questo è stupendo, sì. Beh, si merita assolutamente il premio, che tra l'altro è un premio bellissimo questa settimana, quindi siamo contentissimi. BBC English, questa qui è bella, del sì, Sole 24 sì, ore. Partecipava apposta. Aggiungo solo una cosa, Massimiliano, che la notizia è questa. Allora, la Scarlett Johansson è stata ingaggiata da questa azienda israeliana che produce una bevanda per fare la testimonial. La pubblicità doveva andare prima, durante il Super Bowl che c'è stanotte in America, il più grande evento sportivo americano forse del mondo. La pubblicità è stata sospesa per quello che diceva lei, per la pubblicità comparativa con la Pepsi e con la Coca, ma la polemica grossa per cui lei è finita in prima pagina sui giornali internazionali è che quando la Oxfam, che è una delle più grandi ONG al mondo di lotta contro la povertà nel mondo, le ha chiesto di ritirare quella pubblicità perché la bevanda è prodotta nei territori colonizzati da Israele, sui territori palestinesi, lei ha detto no. E allora c'è stata la rottura del matrimonio tra Scarlett Johansson e la Oxfam. E allora lì, insomma, apriti cielo. Per una volta una star internazionale che non fa la buonista, si può dire, e comunque sì, ha scelto forse il grano anche, perché certo. Credo che la Dream Soda la paghi più della Oxfam. Pagano un po' tutti, direi. Sì. Ma come sei messo con l'inglese? Massimiliano? Un po' così. Quindi... purtroppo a scuola mi hanno obbligato il francese, con l'inglese mi sono dovuto arrangiare. Quindi adesso ti regaliamo il corso e poi verifichiamo che tu sappia l'inglese. Fra quanto ti richiamiamo? Chiamatemi quando ne saprò di più. Ti chiamiamo fra 6 mesi per sapere se hai imparato l'inglese? Benissimo, io e il mio bimbo ci metteremo lì a studiarlo. Va benissimo, secondo me il tuo bimbo già fra 4 mesi saprà perfettamente l'inglese. Ah, ci spero, tra 5 anni loro assorbono. Ok, ottimo. Va bene, complimenti. Grazie Massimiliano, mille. Grazie. Traffico. Grazie. Sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, siccome abbiamo parlato con il ministro Orlando del Piano Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari, e non solo perché Orlando è della Spezia, noi abbiamo trovato un'iniziativa bella che riguarda una scuola della provincia. Sentiamo. La meglio gioventù contro gli sprechi alimentari. Sono i ragazzi del liceo Antonio Pacinotti di La Spezia che, in tandem con Confcommercio, raccolgono il cibo in scadenza dai negozi e lo donano alla Caritas. Un progetto coordinato dalla professoressa Letizia Lacagnina, che ci presenta Giuseppe Bosco, preside del liceo Pacinotti. Dunque, il progetto si chiama Abbattiamo lo spreco e punta a riutilizzare il cibo invenduto, ma di qualità, affinché questo sia destinato alle persone che ne hanno bisogno. È partito questo progetto dai ragazzi del liceo Pacinotti, i quali volevano dare una risposta concreta sul campo alla crisi economica. Adesso abbiamo circa 40-50 studenti, ma ci sono anche docenti, genitori, che la mattina si svegliano mezz'ora prima, passano dai vari negozi e supermercati della loro zona, portano questo cibo a scuola, che quindi è diventato un centro di raccolta. La scuola poi lo fa per venire alla Caritas e dalla Caritas poi viene destinato alle persone bisognose. Dietro questo progetto, oltre, vorrei dire, alla grande solidarietà che dimostrano, no, i nostri ragazzi, c'è una grande rete territoriale però organizzativa. Confcommercio, che ha raccolto 100 esercenti disponibili a svolgere questo progetto, e grazie appunto all'appoggio del dottor Bianchi, che è il presidente, il direttore, il dottor Martini, insomma, Vigo, perché le persone contano, perché le persone in Italia fanno la differenza. È un bel progetto, noi siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi, vediamo crescere una generazione di cittadini solidali, vediamo crescere una bella generazione a cui come scuola siamo lieti di poter aprire per loro un futuro migliore. La notizia con cui chiudiamo oggi, una bella notizia, un si può fare dall'estero, dalla Norvegia per l'esattezza. La National Library, credo che sia la biblioteca nazionale norvegese, vuole rendere accessibili 135.000 libri ancora coperti da copyright, pagando in qualche modo anche autori ed editori, ma rendendo liberi, free per tutti questi libri, perché c'è la possibilità di avere i libri accessibili online, però spesso si tratta di vecchie opere, invece qua si parla di opere fuori di bravo, invece qua si parla di opere recenti. Ne vogliamo parlare, lo abbiamo convocato con Jun Roglien. Buongiorno. Buongiorno. Che è un giornalista, un editorialista, un critico letterario, tra l'altro traduttore anche di importanti libri italiani in Norvegia come Camilleri e altri. Sì, complimenti intanto. Jun, questa notizia intanto ce la confermi? Non è che abbiamo preso un abbaglio? No, è un gran progetto che tutti i libri possesso del Biblioteca Nazionale, sì, quelli stampati in Norvegia, diciamo, non libri dall'estero, ma traduzioni classici, anche nuovi romanzi, tutti i libri sono adesso stanno digitalizzando tutti quanti, però l'hanno fatto con una convenzione con l'ente di copyright, in modo che vengano rimborsati, come ecco, avete detto. Questo è importante perché, fra l'altro, Jun, proprio tu che fai, insomma, il traduttore, vabbè, noi facciamo qui, abbiamo un autore, Carlo Gabardini, ma insomma è importante retribuire gli autori, gli scrittori, questo lo sappiamo, altrimenti sì, poi perché la cultura va a morire. Però c'è questo tema di rendere ormai con le tecnologie accessibili e sembra che lì abbiate trovato una soluzione. Sì, ma poi c'è anche la possibilità di autori, anche di traduttori, di dire no, perché se qualcuno calcola che la probabilità di un ristampo cade con questo sistema qua, no? Quando tutti possono andare liberamente a trovare questi libri. Cioè, allora, che non si fa una ristampa, perché comunque il libro io lo trovo gratuitamente su internet. Giusto. Sì. Allora, diciamo, i libri più ambiti, i bestseller più grossi, alcuni di quelli hanno distesso, cioè si sono tolti da questo accordo. È una cosa libera, però per gran parte dei libri vivono un anno massimamente, no? E allora a quel punto è bello che sono accessibili. Ma la Libreria Nazionale, cioè, quanto paga per questi diritti? Perché qua la notizia sembra molto buona, perché è praticamente la biblioteca che si mette in mezzo e dice: io voglio che tutti possano leggere gratis, però non voglio che gli autori smettano di scrivere, quindi io gli do, immagino, pochi soldi, ma li do a tutti. È così? Sì. No, ma è così, perché il problema è quello che in Italia il sistema del prestito bibliotecario che devono pagare è stato bloccato in Italia, ma in tutta Europa c'è questo modo che le biblioteche, per dare, cioè i libri, diciamo, cartacei, sì, già devono pagare qualcosa agli autori, diciamo, ai diritti di autore. Ah. Però quel sistema in Italia non è mai stato avviato, insomma, c'è sempre stanno litigando con l'Unione Europea su questo. Però è un sistema, ma anche che soltanto che adesso è convertito al digitale, diciamo. Ecco, Jun, ma questi libri che saranno accessibili online? Sì, però c'è soltanto con gli indirizzi IP di Norvegia ancora, perché Norvegia non può dare questo a tutto il mondo, perché non, okay, non hanno, così voi in Italia dovete allora trovare un IP. E comunque anche perché non so, esatto, non so il norvegese, quindi diventa difficile comunque. Cioè, pur di non pagare i camilleri, mi leggo camilleri in norvegese, però prima devo studiare il norvegese. Giusto, così impari pure il norvegese. Perfetto, così sarebbe stupendo. Quando partirà questo progetto? Stanno digitalizzando proprio al tempo pieno, adesso tutto un casino di... Quando hanno questi vecchi libri, se sì, hanno più di tre, loro lo tagliano, come si dice, macellano i libri. Sì. In modo che possono farlo automaticamente, no? Però devono avere ancora tre esemplari a conservare. Ah, ok, almeno tre ce ne vogliono. Io leggo, c'è da Stephen King, Ken Follett, ci saranno anche gli italiani. Tu hai tradotto Camilleri, che altro in italiano che andrà a finire nella biblioteca gratis? Saviano, Umberto Eco, Amaniti, insomma vari autori. Quelli che traducono, insomma, non sono sempre i best seller, no? Va bene. Beh, direi che insomma, sei dai, il più grande traduttore norvegese di libri italiani, così a sentire sì, comunque dai titoli. Dai nomi assolutamente sì. Anzi, ancora complimenti. Complimenti. Per grazie Jun Roglien per essere stato con noi. L'abbiamo preso in prestito dall'altra Europa, che va a caccia di persone che parlano italiano in Europa e ci possono raccontare, certo, queste belle storie. Il sogno della mia vita è avere un mio libro tradotto da Jun Roglien a questo punto. Adesso ci abbiamo il contatto, chissà se possiamo farlo. Esatto. Dobbiamo chiudere, ringraziamo Andrea Piana che ha scritto con noi il programma, così come Giorgio De Luca, e poi c'è Paolo con Leoni Regia. Noi ci sentiamo sabato prossimo. Tanti saluti a tutti e a chi ci ascolta Maurizio in podcast. Carlo Gabardini, ciao. Ciao. Per salvare l'Italia ci sono tante cose che si possono fare. Io partirei da una cosa molto semplice: cominciare con eliminare la gran parte delle società statali, parastatali, regionali, pararegionali e municipalizzate che sono dei postifici occupati da gente di mediocre qualità. Poi un altro intervento, comincerei con eliminare, farei scegliere o vitalizi o pensioni. Qui stiamo spendendo 240 milioni di euro all'anno per vitalizi che vanno addirittura anche agli eredi. Sono dei privilegi che sono assolutamente da eliminare, anche come segnale. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.